You'll hear those verbs in action in the next three dialogues, which are all about asking for and receiving directions. In this first dialogue, a man is trying to find the nearest post office. Scusi, signorina, c'è un ufficio postale qui vicino? Un ufficio postale? Sì, dunque, lei va dritto e poi prende la... Un momento, ho una cartina. Ecco, guardi, noi siamo qui, vede? Sì. Lei continua dritto e prende la... 1, 2, 3, la terza a destra. Attraversa la piazza, poi gira a sinistra e la posta è sulla destra. Dunque, continuo dritto, prendo la terza a destra, attraverso la piazza, poi giro a destra. Non gira a sinistra. Come? Va a sinistra. Ah, sì, scusi, vado a sinistra e la posta è sulla destra. Esatto. Molto bene. Grazie, signorina. Di niente.